Barbara, Barbara, Barbara, Barbara, Señor, cómo soy bella, te vi tu pizza para la cena. Mo saluta Marita Maurizio Costanzo. Ma tu sa quando volte te hai iscritto per me c'è posta per te. Voglio vedere un fidanzato mio, dove vai? Ah, sì? Vieni che facciamo subito. Ai, come viene? Barbara, che cazzo hai fatto? Le hai mandato in Uruguay, le hai mandato. L'hai mandata da tuo mondo. Oh, mamma mia. Regia. Ah, ci ha abbreviato l'agonia. Tanto era un cadavere che camanava. Il saffanculo poroedda. Maria e Filippo. Bene, cari amici. Ora è arrivato il momento di far entrare la nostra ospite. Una donna che porta finite tutte le discussioni d'Italia. Signori e signori, Angela, la favorita cubista! Io di chi dicevo al basso? Tutto con bande, perché la musica entra dentro il cervello e dare l'energia a corpo di ballare. E poi vedi che sono tutto le discoteche! Temo cazzi poco, ma vedi tu da poco. Allora, favolosa cubista, si mantiene alla grande, quanti anni ha? 68 e 14 di gennaio, fai DJ o musica! Che bello, che giovinezza! Mi auguro di essere come lei quando arriverò alla sua età. Ma che cazzo conti, Barbara, tu? Avevo fatto scuola all'interessimo 48! Che simpatia, che gioia! Butta, si dice un'altra cosa del genere, diversa cremazione in diretta! Bene, ora, cara Angela, c'è una sorpresina per te. Ricordiamo la tua storia d'amore con Girolamo il Cervo, finito al pronto soccorso dell'Annunziata 21 anni fa. Da allora non l'hai più visto, vero? E che ragazzo va bene che ero un gatto amato! DJ! No! In 30 anni il matrimonio mi ha passato solo due volte! Mo cazzo si sgratti, discoteche! Ma giù che chiandegge! Che ti chiamo tu! Ma Angela, siamo su canale 5! Appunto! Mi fate vedere un grande fratello che si fanno pure un bidè e io un buzzo di chiamatone! E chiami a bacata! Ok, tra che ora abbiamo una sorpresina per te! Prego, zia! Putta! Su 20 anni che ti stai aspettando! Te parla, mi manchi tanto, soprattutto quando pulizzavo a casa e mi cucinavo. Ma quando mi stiravo e mi lavavo tutti era una cosa insuperabile. Ricordati che i porci e i gaggini hanno assaporato. Che tenerezza, che tenerezza, mamma mia che tenerezza, che romanticismo. Sì, come una vigilia! È romantico come una cazzo che cambia di 30.000 euro a fine mese. Però... mi si è piaciuto. E ora come la buonanima di Alberto Castagna ricongiungiamo dopo 22 anni questa coppia, perché Angia Girolamo è qui. Putta, a te sei che ti spezzo questo palo. Barbara, Maria detto Maria di Filippo concevette di lei a Dio, ma non a chi te mo. Vieni qua di cazzo, fuorica! Bene, signori, e con questo lieto fine vi saluto. Arrivederci alla prossima puntata. Che romanticismo, mamma mia, che belle mille catene! Vigia!